10? Hola, hola. Ma perché tu devi sapere, fammi capire. Non è un amico. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Questa volta... Hola, uno, due, tre, prova. No, no. Ah, sa. Signorine, in questa sede. Allora, che la penso così. Ci sono novità riguardo la signora Albani, l'ha chiamata. Sì, viene a incontrarmi più tardi. Ma sei sicuro di volerlo fare? Hola, hola. Non sei obbligato. Hola. Puoi sempre cambiare idea. Tu devi fare quello che è meglio per te, no? Ciao, quello? Sì, speriamo. Avevi... quella cosa, poi ti ripresenti. Ma non lo so. Allora, perché dice una questione di... Non lo so, manco io. Sto male di salute, capito? Oh, non che oramai ci sia da fare a pugni per far entrare lì, però insomma sarebbe divertente. E così, purtroppo. La salute innanzitutto, come sempre. Si stanno tappando tutte le arterie. Dove stanno andando? Tappando, si stanno chiudendo. Caspita, allora ti stai dando alla passaggioia, cosa mangi? Che ne so, carne con la bella grassa, tutta quella roba lì, colesterolo a go-go. No, negativo. Allora, parliamo, negativo. Vittoria del... Sì, ci vado sulla Fandini, sì. Magari. E qua, a Casino invece, in continente probabilmente non sarebbe un problema. Si mettono un po' di tubi di ricambio e torni nuovo. E poi mi hanno trovato dei noduli alla tiroide, devo fare una ecografia e me l'hanno fissata al 21 agosto, dimmi tu, quando sono morto? Eh beh, è normale, anche il tuo medico già ci poteva mettere la dicitura urgente, almeno l'urgente la potevi fare. È un disastro. Io gliel'ho detto al mio medico, ha detto che non è urgente. Vabbè, lo dici tu. Andare. E allora vuol dire che queste arterie non sono così importanti. Che cosa normale? Ma il colesterolo molto alto ce l'hai? No, che sto facendo la cura poi, no. Non è roba di colesterolo, no. Devo essere quei zigarri che fumi, quelli lunghi, lunghi, quelli che ti fa arrivare la Cuba. Manco quelli. Ecco, perché ne sto fumando molto di meno di sigarette. Adesso però potete. Però purtroppo si stanno chiudendo. Così mi ha detto quella che mi ha fatto l'ecografia da poco. E poi me la fanno ad Alghero, a Sassari non ce n'è. No, già ce n'è, che la fanno a pagamento. Però ovviamente bisogna pagare, oramai è tutto un disastro. Questa disastro solo, Se vuoi ti mando uno dei miei medici gatti, però quelli lo stesso sono cari, sono a pagamento, vogliono che sono un cosciotto San Daniele, quelle cose lì, ti fanno tutti gli esami che vuoi. Così ne dici. Adesso sono pizzicato alla gola, manco parlare posso. Sono già una settimana messo male. Non sto uscendo. È nata lì, c'è molta gente con questa brutta influenza, non so se sia influenza o sia comunque da una febbre altissima. E dura anche per una settimana, quindi è un disastro. No, ma deve essere, ho preso freddo, io febbre non ne ho avuto nulla. È la gola, questo catarro che non mi vuole andare via. Ho fatto la cura con quello sciroppo che posso prendere io, perché sono anche diabetico, quindi roba zuccherata, nisba. Insomma, non ti fa mancare niente, dai. E infatti, boh. Dove andremo a finire non lo so. La verità, tutta la verità. E dove poi andiamo a finire? Dove vanno a finire tutti? Prima o poi? Tutti lì andiamo. A San Paolo do Brasile. Sì, magari ci puoi togliere anche il Brasile, lasciare solo San Paolo. Vabbè, a un certo punto, tanto noi non ci possiamo fare niente. Però comunque tu non dovresti neanche guardarla in faccia una sigaretta, guarda, perché anche una, quando c'è queste patologie, ti fa male. E poi uno può anche dire, meglio un giorno da leone che cento da pecora, però insomma, se la pecora è trattata bene, è meglio fare la pecora che fare il leone ed essere sparato da qualcuno, capito? Io già ho capito, già. Vogliamo capire perché Russella ma si è mossa a 40. Speriamo in bene, cosa mi ci dica. Dipendiamo tutti dal principale, quello che c'è su. Lui decide e lui dispone. E infatti non comandiamo noi. Quando muoio mi ci portano, cosa vuoi ti dica? Almeno a te non ti lasciano lì. A certi capita anche di essere lasciati lì. Non che li ne freghi più tanto, ma insomma. Nel giorno di oggi non è entrato nessuno. Lasciare due bambini lì. Io sono entrato adesso. Sto esplorando e infatti non c'è nessuno. Io non sto più manco ascoltando, me ne è passato. La voglia di tutto me ne è passato, capito? Quando fai male così. L'ho acceso poco fa a vedere se c'era qualcuno, ma no. Non ho mai. Pure qua sta morendo tutto. E tanto, per i grandi argomenti che si fanno. E anche quello c'è. Ma neanche qua, vabbè, qua c'è sempre propagazione, a volte sono dei segnali da lontano che sono molto forti. E già la sento io quando c'è la propagazione. Ospiti, ci facciamo una domanda, ma non sarà un po' eccessivo? Addirittura nella chiamata, nel canale di chiamata, là, stavano disturbando, stavano facendo un macello. Grazie. Indagato dalla procura di Imperia. E così, cosa ci vuoi fare? Ah, io non ci posso fare nulla, no. Stamattina c'è una nebbia micidiale, ma non c'è freddo, c'è nebbia. Me lo posso immaginare. Io volevo andarmene a pescare, ma questi giorni sono stati un po' così. Ho preso freddo e mi sono beccato l'influenza. È così. Tanto per non stare dentro casa, mi per evadere un po'. Adesso una settimana chiuso bene in prigione. Lui non ha chiesto. Rimango in ascolto anch'io. Ok. Vabbè. Natali, io me ne passo a fare altro perché sono arrivato poco fa e quindi devo ancora sistemare alcune cosette. Fammi bene, Natali, ci sentiamo. Ciao Gianfra, grazie per le quattro chiacchiere, alle prossime 73. È come si dice in sassarese, tieniti conto, non fuma, magna bene, e in pipadini. E tromba subito e spesso. Se ancora funziona, perché no? Va bene. Però viene cosa la prostata. Ciao Antone, sto andando via le prusse. Ciao, saluto. Alla prossima, sono appena entrato. 4 cambio. C'era qualcuno? L'ho visto, l'ho orientato adesso. Era una commissione, poi sono andato a casa. Stanco. Io vado a me da doccia, Mundelli, avevo pure un freddo, ma come? Ragazzi, pure orientato la doccia, poi quando ti rilassa. Il bagno io non ci riesco a farlo, no? La vasca è proprio una cosa brutta, non mi piace. Chi è avanti che vuole entrare qua? Cioè, scusa Roberto, ma ti ho messo un messaggio vocale, aspetta. Fai con comodo, non ti preoccupare. Ci sei? Mi sa che quello ci sono entrato io, è carino anche quello. Ti voglio dire, guarda che domenica, sabato, anzi forse venerdì, sabato e domenica, c'è quella guarda che fanno per Ittiri, non so se carnevale di Ittiri, qualcosa, le maschere di carnevale. E c'è la cosa, la visita al Museo della Radio, se ci vuoi andare a Ittiri, non sei mai andato tu al Museo della Radio. Perché domenica è libero, poi vabbè è sempre libero, ma attivano il coso, questo diploma, per cui è più facile che trovi tutti, ci sono dalla mattina a presto, dalle 9 fino alle 10 di sera mi sembra che rimangono, per cui uno se vuole andare a visitare, è carino, molto interessante, io vabbè ce l'ho andato tante volte, adesso lo sta gestendo Antonio, radiamo attore, e ci sono altri amici carissimi, gente in gamba. Se vuoi andare ci fai una bella occhiata, nel senso vedrai operativi anche i radioamatori perché stanno facendo quel diploma. No, probabilmente questa è quella di tutte le radio che ha dei baracchini, quella che esce meglio, molto naturale la modulazione, non ha esaltazioni, attenuazioni, molto pulita, lineare, mi piace tantissimo, te l'ho sempre detto, va benissimo. Ho notato anch'io poco fa, deve essere come se abbassava un po' il livello di quel potenziometro, per cui l'idea è una pulitina, magari quello spray per i contatti, lo fai girare senza alimentazione, lo stacchi completamente dalla radio, lo giri destra e sinistra, un po' consecutivamente, in modo che magari prendete bene il prodotto. Comunque ti ascolto molto bene, segnale 9 più 15, considerando che è 4 watt, sta andando alla grandissima. Di nuovo a te, riprendi. Guarda, mandami la fotografia, adesso sicuro sarà rarissima, però Walter Diabuli che sicuramente ce l'ha, quello ne ha centinaia di radio. Che capamanda, ma dimmi una cosa, ma tuo fratello ha risolto per la radio, Tafio? No, mi ha detto prima delle cose che doveva fare, adesso l'altura, non so se sono arrivate, e poi mi ha parlato dell'autoradio, aveva difficoltà, doveva venire in officina, poi mi ha detto, ma non sono potuto venire oggi, per dire l'altro giorno, vengo domani mattina, questo forse è lunedì, boh, non mi ricordo, però non è venuto, infatti, detto, vabbè, vuol dire che ha risolto. Cos'è un Touring? Che cos'è? 6D3? Che macchina è? Sì, la conosco bene, le 40 ce l'ho fatta nel 2000, c'era mai un carissimo amico, qui poco fa era in officina, adesso in riparazione perché c'è una perdita d'olio all'idroguida, poi deve fare dei lavoretti. Ma cos'è, la berlina o la Touring? Non è molto gestibile, è molto troppo sensibile, la corsa troppo cosa. Dimmi un po', 2000 che cosa dice? Ma dietro c'è scritto 320 o 325? Ah, perché 320, quello c'ha 6 cilindri in linea, è un gran motore, poi sono belli rifiniti, curati anche esteticamente, sono bellissimi i motori. Non è la 4 ruote motrici, non c'è scritto X dietro. Allora non è le 46, se è del 2008 non è le 46, dovrebbe essere le 52. Le 46 l'hanno fatta sino al 2003-2004. Devo lasciare però, mi hanno chiamato a mangiare, dai, è pronto. foto. Dai, ci sentiamo quanto prima, dai, è piacere ascoltarti, saluto anche qua gli amici in ascolto, qualcuno ci sarà sicuramente, dai, ti saluto, vado a cenare, dai, poi se coincide ci sentiamo più tardi o un altro momento. Ciao, grazie di tutto Claudio, ci sentiamo.